Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold side. I got faith in your baby. I got faith. Crisi spagnola, Rajoy gela Puigdemont. Parlerò con chi ha vinto, ma non con lui. Corriere della Sera, che poi titola: crollano i bitcoin, meno 40% in 5 giorni. Il Corriere della Sera, Repubblica invece: Renzi, io al Senato, Gentiloni in campo con tutti i ministri. Entro il 29, sciolte le Camere, voto il 4 marzo. E poi ancora il Corriere della Sera, ultimo sì, passa la manovra. E arrivano anche le nuove nomine alla Consob e ai vertici dei Carabinieri. Buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno nel weekend su Radio 24 e le prime pagine dei giornali, ma questa non è una rassegna stampa normale, siamo come sempre a caccia di buone notizie che però scarseggiano, ahimè, come spesso accade sui giornali di oggi, però noi cercheremo di trovarle e di raccontarvele. Beh, è una buona notizia per il sindaco di Mantova essere stato prosciolto per delle accuse infamanti. Corriere della Sera, centropagina: il riscatto del sindaco, era lei che alterava gli SMS. La vicenda la sapevate, c'era un'accusa nei confronti del sindaco di Mantova, un'accusa di concussione per aver chiesto favori sessuali in cambio di contributi pubblici. Ebbene, la persona che lo ha denunciato, dopo diverse ore di interrogatorio, scrive il Corriere della Sera, 3 ore di interrogatorio e alla fine è crollata. È vero, ho modificato qualche messaggio. E così il pubblico ministero ha prosciolto il sindaco Mattia Palazzi dall'accusa di concussione, anche se resta indagato per abuso d'ufficio rispetto ai fondi dati a varie associazioni della città. Beh, questa era sicuramente per il sindaco una buona notizia, anche se ha passato brutti momenti. E poi che altro? Sempre dalle prime pagine dei giornali, la scalata dolce di Ferrero alle barrette di cioccolato della Nestlé, una operazione da 2 miliardi, è una notizia confermata che di due giorni fa. La Ferrero diventerà così il terzo operatore, cioè produttore e distributore di dolci, di dolcetti, di snack negli Stati Uniti, la Ferrero. E poi ancora, beh, questa può essere considerata, anzi è una notizia complessa, ma leggiamo dalla prima pagina della Stampa: dalla Libia all'Italia, prima volta senza il barcone. Succede che è stato aperto un corridoio umanitario, 162 profughi sono arrivati a pratica di mare, appunto, ma non via mare, bensì via aereo. È anche la prima pagina, il titolo principale di Avvenire, questo qua: corridoi di Natale nel cielo della Libia, iniziativa c'è, il governo in salvo, 162 profughi. Leggeremo tra poco di cosa si tratta. Adesso però andiamo a vedere, a sentire anzi, che cosa si aspettano i lettori dai giornali in edicola oggi. Questa volta la rassegna stampa On the Road è di Laura Viggiano da Napoli. Vediamo che cosa vorrebbero leggere i napoletani sui giornali in questo sabato prenatalizio. Che cosa le piacerebbe leggere su un giornale il sabato mattina? Per esempio che i ragazzi trovano lavoro. Preoccupata da qualcosa in particolare, visto insomma c'è la questione del ragazzino 17enne accoltellato a Napoli. Un episodio sconvolgente, mette in luce l'assenza di tante, tanti elementi che dovrebbero tutelare i giovani per la strada e anche nei locali. Ragazzi, che cosa vorreste leggere su un giornale il sabato mattina? Qualcosa riguardante la musica. In che modo ti informi tu di solito? No, vabbè, dipende. Ho i social network, mi capita poco leggere il giornale, devo essere sincera. Mi farebbe piacere comunque che il giornale fosse un po' più informato sulle attività musicali. Io sabato mattina studio. E in genere come ti informi? Vabbè, attraverso il telegiornale. Orario di pranzo, si ascoltano le notizie e niente. Io mi informo tramite il web, solo tramite il web ultimamente. Leggo tutte le testate, ma solo tramite web. L'età mi porta a mettere occhiali da vista e quindi vado direttamente dove posso allargare senza sforzarmi troppo. Non sento più né il telegiornale, non leggo più il giornale. Mi sono stancata di sentire la gente pessimista. A casa c'è qualcuno che legge giornali, qualcuno che comunque vi dice anche, vi informa un po' sulle notizie? Il nonno continua a leggere il giornale, quindi cartaceo. Però sì, è sempre un piacere poi ascoltare lui. Oh, stop al pessimismo, dice la signora di Napoli, è sicuramente una notizia che tutti noi avremmo voluto leggere sui giornali e che sui giornali oggi c'è, è questa qua, attenzione perché questo è importante, giro di vite sul marketing telefonico, tutte le chiamate saranno riconoscibili, sapete, ne avevamo parlato anche noi che c'era in discussione una legge per mettere un filtro, per mettere un grosso filtro alle telefonate selvagge di telemarketing che ormai raggiungono ognuno di noi 2, 3, 4, 5 volte al giorno e il modo che è stato trovato è questo qua. Il Parlamento, scrive il Messaggero, prova a mettere fine alle chiamate selvagge degli operatori commerciali, diventa obbligatorio rendere riconoscibili i numeri dei call center e allo stesso tempo si potranno iscrivere al cosiddetto registro pubblico delle opposizioni anche i numeri di cellulare, perché fino ad oggi si potevano iscrivere soltanto i numeri fissi al registro delle opposizioni, cioè da quel registro dove non possono pescare i numeri gli operatori dei call center che vogliono proporre contratti. Ecco, questi numeri qua saranno esentati. Fino ad oggi era possibile farlo solo con i numeri fissi, adesso nessuno di noi usa, molti di noi usano principalmente il cellulare che non è il numero fisso, alcuni fisso non ce l'hanno addirittura più, ebbene adesso anche sui cellulari sarà possibile non essere raggiunti dal telemarketing. E poi ancora saranno due i prefissi obbligatori per i call center, uno contraddistinguerà le chiamate commerciali, quelle puramente commerciali, l'altro invece le indagini statistiche. Quando impareremo a riconoscere questi due prefissi sapremo se ci stanno proponendo un contratto, non abbiamo voglia di rispondere, non rispondiamo, oppure se è un'indagine statistica magari uno ha voglia di dire la sua e risponde, oppure no. In ogni caso, stop al telemarketing selvaggio, sempre che nelle pieghe dei dettagli non si annidi il diavolo di qualche interferenza, questa sì che è una buona notizia. Oh, restando sul Messaggero, non so se sia una buona notizia per i cittadini romani, probabilmente lo è per i dipendenti pubblici del Comune di Roma, perché sono stati bloccati gli scatti gli aumenti di stipendio per più di 15.000 dipendenti. Blitz di Raggi promossi più di 15.000 dipendenti, scrive il Messaggero. Non so perché dice che è stato un blitz, di fatto erano contratti fermi da 8 anni e la Raggi ha provveduto a sbloccare questi contratti, ha dato aumenti per i dipendenti del Comune di Roma, 80 euro mensile l'ammontare medio dell'incremento, quindi sono praticamente quasi tutti, perché i dipendenti del Comune di Roma sono 23.000 e gli aumenti sono scattati per 16.000 di loro, aumenti probabilmente insomma che erano dovuti per l'inflazione, non so esattamente, si tratterà di approfondire, però certo, considerata l'efficienza a volte scarsa dei servizi a Roma, così come gli stessi romani ci descrivono la loro città, vedere la pioggia di aumenti può anche suscitare qualche discussione, ma 800 24 00 24, abbiamo oggi diversi argomenti per i vostri interventi, cari ascoltatori. E intanto una notizia per precedere uno degli argomenti di cui parleremo. La notizia ce l'ha il Giorno di Milano, venti deboli e niente pioggia, PM10 oltre il limite da 3 giorni, smog in aumento. Questa non è una buona notizia, non è mai una buona notizia il record dell'inquinamento nelle città, però la contromisura è questa: il comune ha annunciato stop al diesel entro il 2030 in città. Si comincia con i mezzi pubblici, perché l'ATM ha annunciato che non acquisterà più autobus a diesel ma soltanto autobus elettrici, e poi si andrà avanti anche con i limiti per le auto private, sempre con la scadenza del 2030, cioè Milano, come ha già annunciato Londra, come ha già annunciato Parigi. 800 24 00 24, è una buona notizia per voi oppure no? E poi tutti questi incentivi per abbandonare le auto diesel, le auto private, per utilizzare mezzi pubblici, biciclette, hanno funzionato? Avete abbandonato l'auto recentemente a Milano, ma non solo? Se sì, allora chiamateci all'800 24 00 24 e raccontateci di questa liberazione, la liberazione dall'auto, che spesso in città è una condanna, perché si rimane fermi in mezzo al traffico, non si procede, ci si innervosisce solamente. L'unica cosa positiva che si può fare è ascoltare la radio, ma quello si può fare anche con delle cuffiette mentre uno va sui mezzi pubblici. Non c'è il traffico, vero? 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta tra poco. E poi, visto che è Natale, non tutte, vogliamo parlare di regali aziendali, di regali di Natale, perché non tutte le aziende sono come Amazon, che Amazon, lo stabilimento di Amazon di Piacenza, dove ci sono stati degli altri scioperi, addirittura l'azienda non si è presentata. Cominciano a essere parecchie le questioni che non vanno alla Amazon, non si è presentata al tavolo con i sindacati per trattare sulle condizioni di lavoro, sapete, all'interno dell'azienda. Amazon è uno dei grandi giganti del web che non pagano le tasse come dovrebbero e potrebbero nei paesi in cui operano. Amazon è l'operatore che strappa prezzi agli editori, per esempio sui libri criticati. Infatti la notizia di 2 giorni fa è che un grande editore EO ha deciso di rescindere il contratto con Amazon per non pagare il 50% del prezzo di copertina in vendita su Amazon. Ebbene, non tutte, ho fatto un giro largo, ma per dire questo, ci sono aziende e aziende. Per esempio, sentite qua, no? La Monini, quella che fa per esempio l'olio, entra nella cerchia delle grandi imprese che offrono ai propri dipendenti innovative possibilità di welfare aziendali e per esempio quest'anno daranno un premio in denaro in base alla produttività, così come la SPEA, per esempio la piemontese SPEA di Volpiano, che regala una mensilità in più di stipendi ai propri dipendenti. Insomma, le aziende generose sono tante. Allora noi vi chiediamo: qual è il regalo aziendale che vi hanno fatto quest'anno? 800 24 00 24, il regalo aziendale più originale, il più grande, un viaggio magari premio, esiste anche questo da qualche parte, o il regalo più piccolo, il regalo più micragnoso. 800 24 00 24. Ma torniamo sui giornali. Allora, sicuramente qualche altro titolo principale, prima di tornare sulle buone notizie. Allora, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo per esempio il Giornale che scrive, se lo trovo, se no vi leggo Libero: vendono ai cinesi i nostri porti per 4 soldi, anti italiani al governo. Accade che 4 ministeri, secondo Libero, hanno avviato tavoli operativi per stabilire prezzi, tempo e modi per la cessione dei porti italiani alla Cina. E questo è il titolo principale. Poi ancora, per esempio, politica, sul Corriere della Sera: Boldrini sceglie Liberi Uguali, no ai 5 Stelle. L'intervista, se vi può interessare, della Presidente della Camera Laura Boldrini al Corriere della Sera. Io, donna in Libere e Uguali, anche se il nome del partito è Liberi Uguali. E poi dice no ad un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. L'inizio dell'intervista è proprio su quello. Le piace il nome Liberi Uguali, perché sapete che c'è stata una polemica su questo, un nome declinato al maschile. E lei risponde: io da donna entro in Libere e Uguali. mi piace il fatto che il nome si possa declinare. Beh, insomma, il nome è quello, non è che si possa declinare. Uno può anche chiamare il Partito Democratico, può chiamarlo la Partita Democratica, puoi fare quello che ti pare, ma il nome è Liberi Uguali. Forse sarebbe stato più interessante e saggio rispondere a chi se ne frega del nome. Continuerò ad occuparmi del tema delle donne, dei diritti delle donne, eccetera. Poi una cosa la dice Laura Boldrini: coerentemente concludo la legislatura a sinistra, così come l'ho iniziata, da indipendente eletta nelle liste di SEL. E poi dà uno stop alla possibile alleanza col Movimento 5 Stelle, appena entrata nel nuovo partito di Pietro Grasso, già detta la linea Laura Boldrini, ma tant'è, dice Bersani: ritiene possibile un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle? E lei domanda, risposta: parlare di alleanza è prematuro, ma non mi sembra che con i 5 Stelle ci sia un terreno comune, la linea che tra loro prevale non è compatibile coi valori della sinistra. Intervista sul Corriere, se vi può interessare andate ad approfondire. Che altro? Beh, è una notizia sicuramente positiva questa, una buona notizia. La Repubblica scrive: la rivoluzione della sanità, un albo di osteopati e chiropratici, ma con la laurea. Succede che sul photo finish, perché tra pochi giorni saranno sciolte le camere, il Senato ha approvato questa regolamentazione. Da domani osteopati e chiropratici dovranno frequentare un corso di laurea triennale. La loro infatti diventa una professione sanitaria, come già lo sono quelle di ostetrica, tecnico di radiologia e infermiere. La novità è tra quelle introdotte dal disegno di legge Lorenzin sulle professioni sanitarie, che è stato definitivamente approvato ieri dal Senato. Una nuova legge sanitaria dopo quella sull'obbligatorietà dei vaccini, una legge un po' attesa, perché insomma la regolamentazione di queste professioni sanitarie era attesa, e insomma un po' di trasparenza in più e un po' di sicurezza in più, forse anche per chi si rivolge a un osteopata e a un chiropratico, è benvenuta, quindi sicuramente una buona notizia. Sul fronte per esempio Ilva, di cui si è discusso molto, c'è una, se non una buona notizia, una schiarita, perché il premier Paolo Gentiloni aveva chiesto al sindaco di Taranto e al presidente della Puglia Emiliano di ritirare il ricorso, lo aveva chiesto anche il ministro Calenda, ma Gentiloni ha avuto più successo. Il ricorso contro il piano ambientale del governo sull'Ilva, in sostanza Emiliano e il sindaco di Taranto vogliono garanzie maggiori sull'impegno a bonificare l'Ilva. Ebbene, il ricorso non è stato ritirato, ma la regione ha fatto sapere che non si presenterà all'udienza del 9 gennaio, dove poteva scattare la sospensiva, e quindi si andrà direttamente sul merito al TAR, ci vorranno mesi, quindi questo concede più tempo al tavolo della trattativa tra Arcelor, governo, commissari ed enti locali per salvare questa grande azienda. Ricordiamoci che in passato per salvare l'azienda si è chiuso però gli occhi sulle condizioni ambientali all'interno dell'azienda stessa, e questo è stato un errore. Siamo quasi in chiusura, vogliamo sentire qual è il comune ribelle della settimana, la rivolta delle belle idee, delle buone pratiche, insieme all'associazione Comuni Virtuosi del nostro Marco Boschini, che sentiamo dove ci porta questa settimana. Ciao Carlo, il comune ribelle di questa settimana è San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Isabella Conti era salita agli onori della cronaca un paio d'anni fa per una vicenda legata a un nuovo insediamento residenziale in un'area agricola, che sono riusciti a bloccare mantenendo il territorio libero dal cemento. Ma un altro fiore all'occhiello di questa comunità è la mediateca, una struttura pubblica polifunzionale che ospita una biblioteca comunale, una sala civica e vari servizi rivolti ai più giovani e non solo. Proprio qui è in corso in questi giorni una raccolta molto speciale che si conclude proprio oggi. È possibile portare regali di Natale per i bambini seguiti dai servizi sociali. Bambole, pupazzi, libri, fumetti, puzzle, giochi di società, colori, pennarelli. Anche un piccolo dono può rallegrare le feste di tutti. Un gesto semplice che coinvolge i cittadini della città, che è anche un segnale di solidarietà concreta rivolto ai più piccoli. È in questi giorni nelle sale il Teen Wonder, tratto dall'omonimo bestseller, il cui nucleo centrale della storia si racchiude, secondo me, in questa frase bellissima: quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. E allora siamo quasi in chiusura. L'ultima notizia a cui voglio lasciare, in realtà vi leggo il titolo, c'è l'approfondimento sul titolo: dalla Libia all'Italia, prima volta senza un barcone, aperto un corridoio umanitario, 162 profughi arrivati a Pratica di Mare via aereo. Aprendo questi corridoi si potrebbe contrastare più fermamente gli sbarchi che arrivano via mare? Questa è la domanda che ci facciamo e la risposta potrebbe essere sì. Questo almeno è quello che crede il ministro Marco Minniti, che dice: questo è un momento storico perché per la prima volta si è creato un corridoio umanitario per strappare dalle maglie dell'illegalità migranti, a cui l'UNHCR, l'alto commissario, l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha riconosciuto lo status di profughi. Cioè il meccanismo è: si identificano quelli che sono meritevoli di una protezione internazionale direttamente nei paesi di origine, poi con dei voli si fanno magari arrivare in questo caso in Italia o nei paesi europei, potendo poi contrastare più fermamente gli sbarchi di immigrati, a quel punto che non hanno utilizzato i canali possibili esistenti. 800 24 00 24, torniamo dopo il GR, la vostra liberazione dall'auto privata in favore di biciclette e mezzi pubblici, e poi i regali aziendali che avete ricevuto, i più originali, i più grandi, ma anche i più piccoli. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, non sono tutte come Amazon le aziende della serie boicottiamo Amazon, vabbè, insomma, non paga le tasse, non tratta male i suoi dipendenti, tratta male anche i suoi fornitori, beh, insomma, però non sono tutte così le aziende, sentite qua. Allora, intanto c'è l'azienda di Volpiano, Torino, la Spea, che paga una mensilità di stipendio in più ai suoi 520 addetti per, insomma, come premio di produttività dell'anno. Quindi diciamo un caso di un'azienda molto attenta ai suoi dipendenti, welfare aziendale avanzato. E poi c'è anche il caso della Zemac di Badia Polesine, che addirittura riconferma anche quest'anno di voler devolvere l'impegno di devolvere il controvalore degli omaggi natalizi a importanti progetti di solidarietà, come per esempio pagare la bolletta alle famiglie in difficoltà del territorio. Cioè un'azienda che addirittura si sostituisce ai servizi. 800 24 0024. E voi, la vostra azienda, che cosa, come vi ha trattato per Natale? Avete ricevuto un regalo oppure no? Insomma, sono tempi ancora di crisettina, per cui non è che uno ci può aspettare chissà che, però insomma, anche per sentire che aria tira. 800 24 0024. Emanuele, per esempio, su Twitter ci scrive: è un imprenditore, ho offerto la cena a tutti i miei dipendenti e ho invitato anche mogli e figli. La nostra è una grande famiglia. Beh, ha invitato anche mogli e figli, chiaramente il conto era più salato, perché ci sono aziende dove non si fa nemmeno un brindisi, per cui bravo Emanuele, e anche a tutte le altre imprese che lo fanno. 800 24 00 24. E poi, cari ascoltatori, oggi l'ingaggio per giocare con noi è: raccontateci la vostra liberazione dall'auto privata a Milano dal 2030, stop ai diesel. Si comincia con il bando agli autobus diesel, e questa è la notizia da cui partiamo. Vi chiediamo di raccontarci se i disincentivi per le auto private funzionano e quindi negli ultimi tempi avete lasciato l'auto a casa a favore di mezzi pubblici e biciclette. Some Allora, la notizia è questa, insomma, entro il 2030 Milano vuole essere una città senza diesel, libera dal diesel. Il comune inizia mettendo sul piatto la messa al bando degli autobus diesel, ed ora in poi verranno acquistati soltanto autobus elettrici, ma la flotta elettrica dell'ATM di Milano è già abbastanza nutrita. Ne parliamo proprio con l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ben ritrovato, sempre con qualche buona notizia che riguarda, insomma, cerchiamo di risolvere questo problema, che l'altro giorno c'erano i dati sull'inquinamento in Europa, Granelli, e insomma, la regione, la zona di Milano è veramente martoriata da questo punto di vista. Eh beh, certo, siamo un po' in fondo ad un catino, ma proprio per questo dobbiamo fare di più. Abbiamo iniziato, siamo la prima città in Europa il cui centro già oggi non è percorribile sempre dai diesel Euro 4, ma dobbiamo andare avanti decisi per la salute di tutti. Eh sì, anche perché adesso poi ci spiegherà, assieme tra l'altro al direttore generale dell'ATM, Arrigo Giana, che è in collegamento anche lui, buongiorno. Benvenuto. Insomma, i dettagli anche di questo annuncio importante, che porta Milano allo stesso livello. Lei dice, Granelli, l'unica città europea col centro storico con un ingresso limitato come Milano, sul fronte diciamo della lotta al diesel o quantomeno della messa al bando dei mezzi diesel. In questo caso, anche in questo caso, Milano si colloca all'avanguardia, come Londra, come Parigi, che in questi stessi tempi stanno adottando lo stesso tipo di misure. Infatti tutto nasce, possiamo dirlo, da COP40 di Parigi, il vertice in cui il sindaco ha dato questo annuncio. Certamente, è iniziato lì, noi abbiamo portato un annuncio importante, ma soprattutto un piano, perché per dire che nel 2030 il gasolio, sia per i mezzi e per le caldaie, non deve più esistere nella nostra città, bisogna lavorare da oggi, anzi da ieri, per riuscire a raggiungere bene questi obiettivi. Questa sì, è la linea di Milano. Senta, ma quanto influisce però, perché molti dicono, sì vabbè, però i soliti malpensanti o malpancisti, che dir si voglia, però bisogna dare ascolto anche a tutte le obiezioni, e la domanda è questa: quanto influisce realmente il traffico diesel sull'inquinamento a Milano, in questa regione che dicevamo è veramente una macchia nera nella cartina europea dell'inquinamento e dello smog, purtroppo? Certo, i dati di ARPA regionale ci dicono che a Milano, per il PM10, che è il particolato, il 44% viene dato dalle auto, invece il 25% dal riscaldamento, e di questo 44% due terzi è dato dai diesel, quindi agendo su questo agiamo sulla maggior parte dell'inquinamento. Ma ancora di più è il tema degli ossidi di azoto, dell'NO2, degli NOx, che sono l'altro inquinante molto pericoloso per la salute. Lì è dovuto per il 70% dai veicoli, e nei veicoli quelli che producono più particolato e più ossidi di azoto sono proprio i diesel. Quindi i diesel, che sono solo una piccola parte, tra un quarto e un terzo dei mezzi circolanti, producono due terzi di tutto l'inquinamento. Ecco, lo chiedo a lei e, diciamo, e poi anche al direttore generale dell'ATM, Arrigo Giana, che si occupa di mobilità, in aziende di mobilità da tanto tempo. Come mai c'è stato questo cambiamento sul diesel? Perché fino a qualche anno fa avevamo in mano dei dati sbagliati. Come mai invece si riteneva che fosse una tecnologia nuova e in qualche modo potesse anche essere, non dico una tecnologia amica dell'ambiente, ma quasi, perché fino a qualche anno fa questa era la percezione, Granelli? Ma era dovuto ad aspetti economici di costo, sicuramente su questo ci è venuta in aiuto la tecnologia. Fino a un po' di anni fa non avevamo dei mezzi adeguati elettrici, e quindi non era questo possibile. La tecnologia è andata avanti grazie alla ricerca, e poi ha una sensibilità maggiore. Oggi le istituzioni devono rispondere ai cittadini, che chiedono sempre di più che ci sia attenzione alla qualità dell'aria, alla qualità della vita, e quindi da qui dobbiamo tutti fare uno sforzo, noi istituzioni per prime, ma poi chiedere a tutti i cittadini di non usare appunto veicoli diesel e il gasolio per le proprie caldaie anche. Giana, direttore generale di ATM, quanto tempo ci vorrà per questa sostituzione degli autobus che ancora circolano a diesel con autobus tutti elettrici? Quanti mezzi dovrete poi acquistare? È un investimento importante che avete annunciato. E dunque, il nostro parco mezzi sono 1200 autobus, quindi sostituirli integralmente ci comporterà un piano di circa 10 anni. Però incominciamo subito, noi da febbraio arriveranno i primi autobus elettrici, ne compreremo 25 nel corso del 2018 e nel corso del 2018 cominceremo a bandire le gare per le forniture più massicce e quindi cominceremo a bandire gare per 200 autobus e quindi costantemente nel corso dei prossimi 10 anni noi sostituiremo gradualmente 100-150 autobus all'anno. All'anno, ricordando che abbiamo già una parte di traffico metropolitana, ma anche tram, che quindi non diciamo già è da annoverare tra i mezzi che non consumano combustibile e non producono emissioni. Quindi qual è la quota oggi di mezzi elettrici dell'ATM? Giusto per dare un'idea magari alle altre città e a dire cerchiamo di raggiungere Milano, perché su questo siamo possiamo dirlo già all'avanguardia. Assolutamente, noi già oggi produciamo il 70% del servizio pubblico con mezzi a trazione elettrica, quindi tram, filobus e metropolitane. Siamo, ho detto siamo perché abitando a Milano, un minimo di orgoglio, abbiamo l'aria più irrespirabile d'Europa, però almeno ci stiamo sforzando di inquinare un po' di meno. Un investimento importante, un miliardo se non sbaglio avete annunciato, giusto? Sì, esatto. Ecco, ma chi pagherà questo investimento? Cioè sarà un investimento che farete tutto voi, una mano, ATM azienda pubblica, quindi chiedere se li mettete voi, se li mette il comune può sembrare diciamo pleonastico, ma invece la domanda gliela faccio: chi metterà questi soldi? Ci sarà un aumento per esempio dei biglietti, perché il cittadino potrebbe essere anche indotto a pensare questo, fanno degli investimenti ma chi li paga? Pantalone? No, dunque, più della metà di questi investimenti verranno finanziati con risorse da ATM. ATM è un'azienda che ha una situazione economica finanziaria solida e quindi è in grado di finanziare i propri investimenti per più della metà di questa cifra. Poi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi il Ministro Del Rio, ha stanziato quasi 10 miliardi a favore del trasporto pubblico locale nei prossimi 10 anni e quindi noi accederemo a quel finanziamento. Ma una curiosità, questi nuovi mezzi, questi nuovi autobus, come saranno? Perché per esempio si è discusso un po' di come erano e come sono ancora i vecchi tram di Milano, no? Che sono bellissimi, molto affascinanti, in legno, ancora con gli interni in legno, addirittura sono stati ceduti alcuni anche all'estero perché sono stati richiesti proprio anche per il loro design eccetera, no? C'è sempre questa contraddizione tra il fascino del mezzo antico da un certo punto di vista e le tecnologie nuove che sono importanti invece, no? Che fine faranno i vecchi tram per esempio? Allora, la Carrelli 28, che è l'icona di Milano, l'icona di ATM, ovviamente verrà mantenuta e la manterremo sulle linee storiche del centro dove oggi già va, ma in qualche modo è uno dei simboli di Milano e ci guardiamo bene da toglierlo. Quindi rimarranno lì, ma quelle inquinano? Cioè voglio dire, per esempio a livello anche di costa la manutenzione più, cioè costa mantenerle, ci costa molto mantenere in piedi questo fascino o no? Sono mezzi ormai consolidati per i quali abbiamo dei processi manutentivi consolidati da decenni e mi sento di dire che no, non hanno un costo aggiuntivo. I nuovi mezzi ovviamente saranno mezzi che adotteranno le tecnologie più avanzate da ogni punto di vista, sì, dal punto di vista della trazione, del motore, del design e anche di tutta l'infrastruttura che ci starà dietro. Sì, mi raccomando, occhio alle dimensioni, perché è successo coi tram, per esempio, che i nuovi tram erano un po' sovradimensionati. È stato risolto questa questione, cioè si incastravano in curva, si ricorda? Beh, non proprio, si incastrarono, no, avevano creato qualche problema in alcune tipologie di incroci, ma poi la rete è stata disegnata in funzione proprio anche delle dimensioni dei tram, che comunque, voglio dire, sono stati così pensati per offrire maggiori possibilità di trasporto. Si scherza, ma non tanto, Gianna, perché, ripeto, certe cose in passato le abbiamo viste. Più seriamente, invece, quali aziende potranno trarre vantaggio anche da questo bando importante, cioè vendere tutti questi mezzi elettrici al Comune di Milano? Ci sono già delle aziende interessate? Saranno aziende italiane, straniere? Beh, allora, una mole così ingente di investimenti ovviamente aprirà il mercato dei produttori, che in questi anni in Italia è rimasto un po' bloccato, e quindi anche le aziende italiane sicuramente potranno giovarne. Noi ovviamente faremo gare pubbliche, gare europee. Tutti i principali produttori di autobus europei sanno che questa è l'evoluzione nostra, ma loro stessi si stanno evolvendo in questa direzione, quindi sarà anche un grosso segno, un grosso impulso allo sviluppo anche della produzione industriale. Ma in Italia ci sono ancora delle aziende, glielo domando così proprio laicamente, perché abbiamo letto notizie che riguardavano l'Iveco, le difficoltà, la ripresa, la ripartenza. Ci sono aziende in grado di produrre questi autobus elettrici per il Comune di Milano, per esempio? Sì, assolutamente, ci sono almeno 2-3 produttori in Italia che ovviamente in questi anni non sono riusciti a produrre grossi volumi di mezzi, ma che con questi piani di investimento che facciamo meno male, noi, speriamo, dovrebbero ricominciare. Io agli ascoltatori ricordo all'800 24 00 24 se vogliono chiamarci per raccontarci se questi incentivi, avete sentito, governo, comune, l'ATM, investimenti che riguardano Milano ma riguardano tutte le città italiane per disincentivare l'uso dell'auto, se hanno funzionato effettivamente, se avete abbandonato l'auto, cioè raccontateci questa liberazione, perché a volte usare l'auto in città è soltanto una grande frustrazione. Se volete 800 24 00 24 raccontarci la vostra liberazione dall'auto. Senta, Granelli, è vero che ci saranno dei nuovi autovelox, parecchi nuovi autovelox a Milano nei prossimi giorni? Settimana scorsa ne abbiamo aggiunti 2 in Fulvio Testi, che sono operativi da una decina di giorni, e settimana prossima ce ne saranno altri 2 in via Parri e in via dei Missaglia. Sì. Sono degli strumenti che aiutano a dimezzare gli incidenti con feriti. I nostri dati dicono che su quelle strade, diminuendo la velocità, si dimezza il numero degli incidenti con feriti, e questo è un altro dei temi importantissimi per la mobilità, ridurre le persone che si fanno male in strada. No, assolutamente no, è che uno a volte è facile fare 2 più 2, no? Ci sono da fare degli investimenti in termini di mobilità cittadina, si mettono un po' di autovelox e così li pagano i cittadini, però insomma così non è, mi sembra di capire, no, quello che dice lei. No, direi che la preoccupazione nostra è quella della sicurezza, tant'è vero che anche in questa occasione abbiamo aumentato la segnaletica, abbiamo aggiunto, oltre quella già prevista dal codice, abbiamo fatto proprio sull'asfalto dei grossi scritte con scritto controllo elettronico della velocità e riprodotto il cartello del limite dei 70 o dei 50 all'ora in carreggiata, mettendo anche dei segnali lampeggianti, in modo che il cittadino sappia. A noi interessa quello, il cittadino deve sapere che c'è l'autovelox e quindi deve andare più piano, questo è il nostro obiettivo. Senta, le zone 30 come stanno andando? Bene? Sì, noi stiamo adesso progettando a partire dai quartieri obiettivo individuati dal sindaco per il progetto periferie, quindi stiamo progettando non solo il limite dei 30 all'ora, ma quelle configurazioni stradali, vuol dire l'allargamento del marciapiede, fare evidenziare gli attraversamenti pedonali, illuminare maggiormente l'attraversamento pedonale, fare il posto per le biciclette, ecco, tutti quegli elementi strutturali che aiutano a aumentare lo spazio in strada per il pedone e per il ciclista, anche recuperare delle piazze. L'altro giorno siamo stati in piazza San Luigi nella periferia sud, vicino a Corvetto di Milano, proprio a discutere con la gente, con i cittadini. Non avete avuto proteste per questo? Perché no, anzi, devo dire che in quel caso c'era proprio la parrocchia, il circolo ARCI, il circolo culturale dell'ARCI, che ci chiedevano di fare spazio per la città, per fare in modo che quella piazza, che è la piazza dove c'è la chiesa, dove ci sono delle attività commerciali, eccetera, diventi luogo di incontro e non luogo per parcheggiare le auto. Certamente poi dobbiamo fare in modo che ci siano modi per usare di meno alternativi, l'auto, esatto, perché altrimenti oppure non luoghi dove poter parcheggiare, però questo è il cambiamento. Dobbiamo recuperare la qualità di vivere i nostri spazi come luoghi dove si incontra, dove si sta bene. I dati che cosa dicono, Granelli? Cioè, i cittadini milanesi vi stanno venendo dietro o stanno anche anticipando questo? Cioè, diciamo, si usa meno la macchina per gli spostamenti in città o no? Noi siamo passati negli ultimi 10 anni da 6 auto per ogni 10 cittadini a 5 auto, 5,2 per ogni 10 cittadini. L'obiettivo che ha indicato il sindaco a Parigi è nel 2030 di scendere a 4 auto per cittadini, per ogni 10 cittadini, e quindi allinearci, avvicinarci ai dati delle grandi città europee. Un'ultima cosa, l'associazione Cittadini per l'Aria ha organizzato un monitoraggio dell'aria, diciamo spontaneo, no? Ci saranno persone che andranno in giro con delle centraline anche nello zaino, proprio in bicicletta oppure sul balcone di casa, per avere dei dati, diciamo così, dal basso, perché a volte o non c'è sufficiente fiducia nelle rivelazioni quelle istituzionali, oppure anche proprio per dare una mano al comune. Li almeno ringraziati, perché fanno una parte del lavoro. Certamente li abbiamo anche, sono stati anche in commissione consigliere. Noi abbiamo un tavolo con le associazioni dei cittadini con cui ci confrontiamo periodicamente. È un contributo soprattutto di consapevolezza, perché noi dobbiamo aumentare la consapevolezza in tutti i cittadini che questo è un tema rilevante per la salute nostra e dei nostri figli. Noi vediamo tutti i giorni, penso, davanti alle scuole quello che succede. Ci sono genitori che ormai si sono abituati a portare i bambini a scuola a piedi o in bicicletta e genitori che li portano in auto. Ecco, lì si vede come parlare di queste cose, avere associazioni che diffondono i dati, che rendono consapevoli i cittadini che l'inquinamento dell'aria è una cosa che non si vede, però fa male, perché gli ossidi di azoto fanno molto male per le malattie polmonari, per le malattie del cuore, per le malattie al sistema nervoso, e quindi non si vede, ma c'è, e quindi grazie alle associazioni che ci aiutano a parlare di queste cose, ci spronano a fare politiche vere. Devo chiudere, però in chiusura le chiedo in 30 secondi, perché mi sono dimenticato di chiedere, ma le auto private diesel, quelle, no? A che punto siamo con i divieti? Cioè, quelle possono continuare a circolare Euro 4, Euro 5? Noi, come dicevo, nell'area C già oggi non entrano fino ad Euro 4, e invece da fine del 2018, da autunno 2018, attueremo la low emission zone, cioè in tutta la città non potranno entrare più gli Euro 3 diesel, con un controllo che sarà di segnali e anche di telecamere. Gli altri vanno avanti fino a quando? Poi nel 2020 bloccheremo gli Euro 4 e gli Euro 5 nel 2025. Va bene, grazie, buona giornata. Marco Granelli, assessore alla mobilità del Comune di Milano, Enrico Giana, direttore ATM. 800 24 00 24, siamo qua, tra poco raccontateci la vostra liberazione dall'auto, se c'è stata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Your best friend, Eastside love. Allora, intanto c'è un ascoltatore che al 349-238-6666, Sergio, mi scrive: ma io con Amazon mi trovo benissimo, perché lei ha criticato Amazon? Amico mio, come utente di Amazon mi trovo benissimo anch'io, figuriamoci, schiacci, compri quello che ti pare, a parte che devi dare anche una controllata al prezzo, perché tante volte il prezzo ti frega, ma va benissimo Amazon. Però io leggo i giornali, mi informo, sento le notizie. Allora, se Amazon viene accusata di non pagare le tasse regolarmente nel nostro paese, di trattare male i suoi dipendenti che scioperano in continuo, addirittura ci sono editori che non vogliono più vendere i libri su Amazon perché gli riconosce una quota in questa, che è una partnership economica, commerciale, troppo bassa, allora mi faccio delle domande: o c'è un complotto contro Amazon, oppure questa azienda deve rivedere alcune delle sue politiche che sta sbagliando. Questo è quello che penso io. 800 24 00 24. C'è però Franco che ci ha chiamato da Mantova. Buongiorno, benvenuto Franco. Grazie, cosa volevi intervenire? Buona giornata, buon Natale. Dunque, io a Milano vado 2 volte la settimana per lavoro. Ho una macchina che ha 4 anni, quest'anno il quinto, perché è un anno, sì, in più, per dire. Ho 90.000 chilometri, quest'anno ho fatto anche la revisione. Una volta all'anno faccio la prova dei fumi. Scusate, la mia macchina è perfetta. Io non riesco a capire perché inquina la mia macchina. Ma la sua cos'è? Un Euro 3? Un Euro 3 la sua macchina, o Euro 4? No, no, Euro 4. Euro 4, scusa. No, la tua macchina può circolare, per ora può circolare tranquillamente. Sì, ma io l'anno prossimo, sì, a Milano, devo cambiare la macchina. Dal 2020, se ho capito bene quello che ha detto, sì, l'assessore. Sì, vabbè, ma però a Bergamo, sì, molte volte, come è successo a Torino, dovevo andare a Torino, era soltanto Euro Diesel 6. Cioè, ma stiamo scherzando, una macchina che ha 90.000 km, è nuova, devo correre per gli sbagli che hanno fatto loro a non permettere di purificarsi l'aria. Chi cioè, sono loro? Scusi, loro. Franco, chi? Loro chi? Che hanno fatto loro? Lo Stato. Sì. I comuni non si sono adeguati loro e noi a paghiamo. Cosa? I comuni non si sono adeguati paghiamo. A cosa, Franco? Mi scusi, perché lei ha comprato l'auto diesel, ce l'ho anch'io, scusa Franco. Dell'aria. Ce l'ho anch'io l'auto diesel. No, abbiamo comprato l'auto diesel, dopodiché poi nel tempo sulle auto diesel vengono messi dei limiti. Lei non è che non può circolare, lei può circolare tranquillamente. Dentro il centro di Milano non si può entrare se non pagando, dentro il centro, la cerchia stretta con l'auto diesel, ecco, non si potrà più entrare. Volevo farti questa domanda, sì, scusa, eh. Sì. Cioè, io pago 3 euro, 4 euro, la mia macchina non inquina, sì, più? Sì. No, ma sono cose diverse, Franco. Un conto è la, sì, quello che abbiamo, cioè abbiamo comprato. Polemica, l'abbiamo, no, appunto, mi sembrava, ecco, di sì. Io, per carità, sì, sto parlando soltanto che chi ha sbagliato, sì, sono i comuni. Sì. Loro hanno sbagliato. Cioè, noi paghiamo sempre. Ma perché per hanno sbagliato? Degli altri. Cosa ha sbagliato il comune in questo caso di Milano? A non adeguarsi con le caldaie a gasolio di 30 anni fa che, sì, fanno una cosa enorme. Sì. Io vendo, sono dentro dei prodotti idraulici. Allora, i comuni, le caldaie possono essere caldaie private, ecco, e caldaie poi di edifici pubblici, Franco. Hanno dato tutto il permesso. Cosa c'entra, ai il comune, cosa c'entra il comune con le caldaie private? Che tra l'altro anche quelle sono sottoposte a normative e a cambiamenti, allora, a investimenti, eccetera. Non si erano informati che le caldaie turbo, sì, quelle che non mettevano la canna fumaria, cioè è uscita la legge per mettere la canna fumaria, tutte scaricavano fuori dal buco dalla finestra, sì, e lì c'era una polveriera enorme. Va bene Franco, ho capito, grazie. La questione è ampia, ovviamente riguarda anche i riscaldamenti, come no. Avete sentito però i dati dell'assessore, una parte consistente dell'inquinamento a Milano riguarda il traffico e di questa parte una parte molto consistente riguarda le auto diesel. Ecco perché si è deciso di intervenire su questo traffico. Per... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, non so voi, io non ho fatto questo regalo a nessuno, però pare che sia, secondo le classifiche di questi giorni, uno dei regali più in voga, più gettonati del momento. Sicuramente tra quelli high tech, cioè tra i regali tecnologici. Parliamo dei droni, proprio sì, di quelli lì che volano e che servono per fare varie cose. E noi abbiamo convocato il professor Lorenzo Marconi, che è docente responsabile del progetto Sherpa dell'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. No, rido perché mi immagino lei è in collegamento dall'arena di volo indoor di Cesena in questo momento o è altrove? Immagino che sia a far regali. Adesso sono altrove. Non a fare regali, ma sicuramente non nell'arena. Ecco, sì, perché lei è uno degli ideatori, dei promotori di questo spazio che forse è uno dei più grandi addirittura d'Europa che abbiamo a Cesena, vero? Sì, abbiamo creato questa attrezzatura di laboratorio sicuramente significativa per il volo indoor, quindi per la prototipizzazione rapida di questi robot aerei. Sì. Lei li chiama robot aerei, neanche droni. Sì. Robot aerei. In letteratura si parla di robotica aerea. Certo. Diciamo, il drone è una, diciamo, una nomenclatura che non viene molto utilizzata in ambito, diciamo, cioè tra voi, tra specialisti non dite droni, droni lo diciamo noi poveracci, va bene. Senta, ma perché bisogna dire che in questa arena di volo indoor a Cesena, che è il frutto di una collaborazione tra varie università anche internazionali, voi in particolare testate droni per il soccorso alpino. Ma nel progetto Sherpa, che ha menzionato inizialmente, un progetto europeo, l'idea era quella proprio di sviluppare robotica per l'ausilio alla ricerca del soccorso, in particolare il soccorso alpino è stato il nostro utente finale. Perché a volte può sembrare che questi droni siano un po', come dire, un'invenzione, quasi un giocattolo, che ci siano persone che si divertono a farli volare un po' come un aeroplanino, capito? E invece, invece lei mi insegna che in questo caso salvare delle vite umane i droni assolutamente sono ambiti applicativi dove il loro utilizzo può veramente cambiare la vita. Il caso del soccorso alpino è sicuramente un esempio particolare per sono stati utilizzati, li stiamo sviluppando per la localizzazione veloce di dispersi in valanga, quindi per cercare di mandare sulla scena droni equipaggiati con certi sensori che localizzano velocemente chi arrivare rapidamente, eccetera. Senta, ma qual è secondo lei invece il segreto un po' del successo del drone a livello commerciale, a livello di uso, di ampio uso tra persone comuni, insomma, che non sono degli specialisti come voi? Ma semplicemente la facilità di utilizzo, facilità di utilizzo che sicuramente poi generata da algoritmi di controllo che sono a bordo, che nascondono un po' tutta la complessità della macchina. Cioè non è difficile pilotare un drone, ma ci vuole la patente però adesso, no? Sì, è sicuramente tutto un ambito che è stato regolamentato in Italia come in Europa, quindi serve una sorta di patentino, però insomma a livello di utilizzo specifico del mezzo sono cose molto molto semplici. Ma quanto può costare un drone? Da poche centinaia di euro, in realtà anche sotto la centinaia di euro, fino a prodotti molto più professionali che possono costare qualche migliaio di euro. Ecco, quelli lasciamoli perdere perché quelli sono per gli speciali. Però se uno vuol fare un drone 200 euro se la cava, ce la possiamo fare. Assolutamente. Per fare cosa? Poi questo è tutto un altro paio di maniche. Io la ringrazio, professor Marconi. Era l'ultima notizia per oggi. Noi vi salutiamo qua. Ringrazio Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Lauricella in regia. Ci risentiamo domani con una puntata però registrata. Poi dopo il 2 gennaio di nuovo in diretta e quant'altro.